rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Come potrete immaginare, ma come forse anche di voi hanno visto su internet, la maggior parte della stampa, in particolare nelle giornate di sabato e di domenica, io domenica ho proprio fatto la rassegna qui alla radio ed era incredibile, le prime pagine erano veramente, o meglio non era incredibile, era giusto che le prime pagine dei giornali fossero dominate dalla cronaca e dalle analisi sugli attentati di venerdì 13 novembre. Moltissime le opinioni che poi si sono, oltre che la cronaca che ha continuato a fornire novità, che si sono poi sviluppate durante la settimana, ma per questo mi sembra particolarmente interessante invece un articolo che era stato pubblicato prima degli attentati da Will Hutton sull'Internazionale e che era intitolato "Solo lo sviluppo può battere il terrorismo", e il senso di questo articolo era che l'Europa doveva cominciare a pensare a un monumentale piano di aiuti, commercio e consolidamento delle istituzioni in Medio Oriente, perché parlare di pace non è più sufficiente. E allora naturalmente fatti di cronaca terribili di Parigi e con tutti gli allarmi che poi ci sono stati e che probabilmente ci saranno ancora, anche se speriamo non per tanto, sono sicuramente ciò che di cui l'attualità che ci rincorre, l'attualità che ci opprime, però forse poi appena possibile occorrerebbe veramente pensare al quadro più ampio, per esempio a degli aiuti nei paesi che tra le tante cause del fondamentalismo mostrano anche appunto la grande povertà, la grande disparità di trattamento dei cittadini, che diventano quindi più vulnerabili a qualsiasi tipo di fondamentalismo, compreso quello religioso islamico. A proposito proprio dei combattenti stranieri in Medio Oriente, c'è su voxeurope.eu, sapete il mio sito preferito, questo sito che nomino sempre, che fa quest'opera di monitoraggio della stampa europea ma produce anche dei contenuti affidandosi anche a produttori di contenuti open source che quindi poi tutti possiamo riutilizzare, basta citare la fonte. Ecco, allora per esempio pubblica questa mappa che è stata realizzata da Radio Free Europe e Radio Liberty all'indomani degli attentati che ricordiamo hanno fatto 129 morti, e questa mappa indica i paesi di provenienza dei combattenti stranieri in Iraq e in Siria, e in particolare gli europei, e da questa mappa si scopre che la Francia è in testa con 1200 combattenti stimati, seguiti dalla Turchia 1000, dal Regno Unito 600. Rispetto alla popolazione, il numero di jihadisti stimato più elevato proviene però dalla Bosnia Erzegovina, 93 combattenti per milione di abitanti, seguita dal Kosovo e dall'Albania. Fra i paesi dell'Europa occidentale, il Belgio è in testa con 40 jihadisti stimati per milione di abitanti, seguito, pensate, dalla Svezia e dalla Danimarca. Vi faccio una carrellata veloce un po' dei titoli dei giornali francesi dei giorni successivi, anche se poi appunto abbiamo visto tutto si è mischiato tra cronaca, analisi e poi ancora cronaca con i blitz della polizia. E non soltanto in Francia, abbiamo appena parlato di Belgio, anche in Belgio. E allora dopo gli attentati di Parigi appunto il senso un po' di tantissimi articoli era la possiamo mettere come vogliamo, però la realtà è che i terroristi hanno appena vinto una battaglia. Per esempio il Libération titolava, scriveva: è la Francia, la sua politica, il suo ruolo internazionale che sono presi di mira dai killer, non con attentati mirati come quello di Charlie Hebdo o dell'ipermercato Kosher, ricorderete all'inizio dell'anno, ma con una crudeltà indistinta scatenata per ispirare il terrore a tutto un popolo. Per invece sulle Parisienne, che è un quotidiano appunto di Parigi, gli autori degli attacchi di venerdì ispirano, queste le parole usate, rabbia e disgusto. Vengono definiti barbari di Dio, soldati di paccottiglia, il cui eroismo consiste nell'uccidere innocenti. Massacrano la cieca perché vogliono mettere la Francia in stato di shock. Un'ultima segnalazione ve la faccio da Le Monde, qui si leggeva: è una prima in Francia in materia di attentati, perché mai così tanti kamikaze contemporaneamente si erano fatti esplodere. A proposito di misure di sicurezza e anche di panico diffuso e forse anche eccessivo, ma naturalmente giudicare da qui è probabilmente inopportuno, quindi di fatto ritiro quello che ho detto, in una situazione del genere la parola eccessiva perde forse significato. In ogni caso appunto, come una delle tante conseguenze degli attentati, è un allarme per i prossimi europei di calcio, e questo allarme è stato registrato, gli europei di calcio che dovrebbero tenersi in Francia, si terranno in Francia, ma c'è stata una presa di posizione della federazione Federcalcio tedesca, che ha deciso di rivedere le misure di sicurezza per la nazionale, che lo ricordiamo è vice campione del mondo, e questa presa di posizione è stata riportata sia dalla Bild, che sapete è uno dei quotidiani più diffusi in assoluto in Europa con circa 6 milioni di copie, un quotidiano popolare un po' stile tabloid, ma anche stessa posizione della Federcalcio è stata ripresa anche dalla Frankfurt Allgemeine Zeitung. E sempre sulla Frankfurt Allgemeine Zeitung c'è un'altra notizia che riguarda questo panico che si sta diffondendo, questa ansia di aumentare le misure di sicurezza, questa necessità, potremmo dire, di aumentare le misure di sicurezza. E in Germania, dove insieme alla Svizzera e all'Austria ci sono la maggior parte dei mercatini di Natale europei, si sta pensando di rafforzare le misure anche per quelli. E sapete che la Germania è divisa in Länder, in stati, è uno stato federale, quindi saranno decisioni prese dai singoli Länder, e quindi scrive sempre la FAZ: le autorità di quattro Länder, cioè la Baviera, il Berlino, la Turingia e Baden-Württemberg, hanno annunciato un aumento della presenza visibile della polizia e anche una politica di sensibilizzazione verso visitatori ed esercenti a non abbassare la guardia nei confronti di pacchi sospetti. E quindi verranno anche fatti molti annunci, come quelli che sentiamo negli aeroporti o nelle stazioni, appunto, che i pacchi non identificati verranno rimossi, e l'invito a segnalare i pacchi non identificati. Dal Guardian, sempre in tema di sicurezza, un'anticipazione. Il Guardian infatti ha visto un documento che la Francia ha inviato a Bruxelles, con cui si chiede di rafforzare i controlli su chi viaggia. Il governo francese avrebbe chiesto appunto agli altri paesi dell'Unione Europea di sottoporre tutti i cittadini diretti in Francia a controlli di sicurezza più severi. Il Guardian ha ricevuto in esclusiva questa richiesta di 3 pagine, che è stata inoltrata ai 26 paesi che aderiscono all'area Schengen, e le richieste sono appunto 4: rapida adozione di misure che permettano di acquisire informazioni su tutti i cittadini che sono diretti in Francia con l'aereo, una serie di leggi per ridurre la vendita e il commercio di armi, controllo più rigoroso di tutte le transazioni di denaro in contante fatto attraverso canali non elettronici, maggiore condivisione delle informazioni e delle intelligence dei diversi paesi. E restiamo purtroppo in argomento, perché anche il Paese si è occupato del terrorismo jihadista, in particolare di quello autoctono, che secondo il Paese è in Spagna in costante aumento dal 2013, quando sono iniziate le operazioni delle milizie jihadiste dello Stato Islamico, il famoso ISIS, famigerato ISIS, in Iraq e in Siria. È uno studio fatto dal Reale Istituto Elcano, pubblicato appunto su El País. Per quel che riguarda la componente estera, scrive il quotidiano spagnolo, è in massima parte marocchina, 34,7%, mentre si abbassa l'età media dei jihadisti. Pensate che il 60,9% dei fermati ha fra i 15 e i 29 anni. Sempre su El País vi segnalo anche una notizia in tema di immigrazione, che forse non sempre a proposito è stata legata, soprattutto da alcuni politici italiani, al tema del terrorismo. In questo caso El País segnala che continuano anche verso la Spagna i viaggi di chi cerca un rifugio in Europa, e continuano purtroppo anche le tragedie, le morti e i naufragi. Quindi un barcone con a bordo 46 migranti è affondato nell'Oceano Atlantico tra il Sahara Occidentale e le Canarie, a 128 miglia dalle coste dell'arcipelago spagnolo. 24 persone risultano disperse, scrive appunto El País. Cambiamo un attimo argomento, perché è un tema di cui ci siamo occupati tanto, ma che poi si è un po' perso, anche se credo riserverà molte altre sorprese. Torna a occuparsi nel Wall Street Journal, è quello della Volkswagen e degli imbrogli fatti dalla Volkswagen sui dati sulle emissioni di alcune sue autovetture. Ecco, allora Wall Street Journal scrive che Volkswagen è stata chiamata a presentare alle autorità americane un programma che delinei come l'azienda intende procedere per aggiustare il quasi 500.000 di vetture vendute negli Stati Uniti dotate di questo software, appunto, messo a punto, come abbiamo saputo, per truccare i dati dei test sulle emissioni. La questione è delicata, scrive il Wall Street Journal, perché le autorità devono stabilire le multe che la casa automobilistica tedesca dovrà pagare per lo scandalo scoppiato ormai 2 mesi fa. Sono già passati 2 mesi, ma come vedete è ancora tutto a riserva, appunto, ancora molti sviluppi e sorprese. Era l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi per questa settimana. Vi segnalo appunto ancora una volta, per restare aggiornati, il sito voxeurope.eu. Da ieri c'è anche in edicola un nuovo numero di internazionale internazionale che, come potete immaginare, ha tanto spazio a quello che è successo a Parigi. Noi invece ci risentiamo sabato prossimo. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.